Want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Want to, want two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti da GG Telesforo. Siete collegati con l'Auditorium Parco della Musica, dove siamo tornati per l'ennesima volta per incontrare un amico, un meraviglioso musicista, forse la tromba più famosa d'Italia in questo momento, protagonista anche lui del Roma Jazz Festival, che è arrivato alla 37esima edizione, che si sta svolgendo proprio in questi giorni qui nelle sale, negli auditorium del Parco della Musica. Edizione intitolata Speech, perché mette insieme la passione per il jazz che verrà proposto da musicisti meravigliosi, ma anche la letteratura. Jazz e letteratura camminano insieme in questo percorso ideato per il Roma Jazz Festival qui all'Auditorium Parco della Musica. È mio ospite, uno dei miei amici ormai da tanti anni, Fabrizio Bosso. Fabrizio, benvenuto al Soundcheck. Eccomi, ciao carissimo, è un piacere immenso essere qui con te. Insomma, non dividiamo il palco, ma comunque siamo qua a parlare di musica, quindi è bello. Ecco, noi ci conosciamo da tanto tempo. Io volevo anche ricordarti, la prima volta che ti ho ascoltato dal vivo sarà stato, ma forse una ventina di anni fa, esattamente a Piazza Campo dei Fiori a Roma. C'era il quintetto di Maurizio Gianmarco con giovanissimi musicisti proprio della nuova generazione, e io notai questo trombettista biondino che suonava da paura, e eri tu. E tra l'altro venni anche dopo il concerto, dopo la performance, a salutare Maurizio Gianmarco, e anche per conoscerti. Ci siamo conosciuti lì e poi ci siamo incontrati in tante altre situazioni di musica, abbiamo suonato insieme, no, non tantissimo, perché siamo affaccendati ognuno con i propri progetti. Ma una cosa che mi è molto chiara è che tu, oltre ad essere un eccezionale musicista, sei un musicista soprattutto versatile, ti piace di tutto. Che cosa hai ascoltato da bambino? Di cosa ti sei nutrito musicalmente parlando? Ma io sono cresciuto proprio con i grandi interpreti della canzone, da Gino Paoli, Lavanoni, Frank Sinatra, Tony Bennett. Diciamo che il mio svago, il mio regalo quando finivo di fare gli studi classici era proprio quello di mettermi a improvvisare sull'album doppio di Paoli con Lavanoni, sai, dove faceva Tristezza, tutti quei brani fantastici. E il mio approccio all'improvvisazione è stato proprio quello, cioè non è che ho studiato, mi sono messo lì a studiare cose, ho iniziato a improvvisare su quei dischi, ho sentito che mi divertiva, e da lì è partita la grande passione per questo genere musicale. Ecco, la passione per il jazz nasce proprio così, dall'ascolto di tanta musica, e questo è lo studio più importante per i musicisti. Molti giovani, quando faccio masterclass di canto in giro per l'Italia e all'estero, mi chiedono come si impara l'improvvisazione, il senso dell'improvvisazione. Questo forse è una cosa che puoi confermare anche tu: intanto ascoltare e ripetere. Assolutamente, perché anch'io mi scontro sempre con queste cose, che ci sono questi ragazzi che si aspettano le regole o dei segreti per improvvisare. Io dico, se non arrivate a sensibilizzare l'orecchio, a sentire quali sono le note che cantano veramente, le note giuste, perché questa è la verità. Su un accordo abbiamo 3, 4, 5 note, ma è la nostra sensibilità che deve capire e sentire qual è la nota su cui fermarsi o qual è la nota da prendere solo di passaggio. Poi possiamo studiare tutte le scale, tutti gli accordi, come dicevano i grandi americani, voi studiate un sacco, più che potete, quando iniziate a suonare dimenticate tutto quello che avete studiato. È la verità, perché non c'è il tempo mentre si improvvisa di pensare di usare una determinata scala su un accordo. Poi entriamo in tecnicismi allucinanti, però è così. Hai detto una cosa molto interessante e vorrei ribadire il concetto. Hai detto, perché quando si improvvisa tutto deve essere cantabile. È molto interessante questa cosa, che parlando di improvvisazione strumentale, però l'improvvisazione deve essere cantabile. Esattamente che cosa significa? E poi ne diamo un esempio, perché sta arrivando uno dei nostri musicisti preferiti qui al Soundcheck, che è Chet Baker, che è riuscito a mettere insieme due aspetti bellissimi: la vocalità e il suono suono del suo strumento che era la tromba. Beh, deve essere comprensibile quello che tu vai a fare, assolutamente, come è comprensibile una canzone quando uno canta o quando uno parla. Se noi ci mettiamo a fare delle cose quando improvvisiamo, ok, lasciamo perdere quando si suona in maniera molto veloce o tecnica, però ci deve essere sempre una cantabilità, una melodicità per arrivare al cuore e alla mente della gente. E arriva al cuore e alla mente della gente da sempre il suono vellutato della voce di uno dei più grandi crooner del jazz, Chet Baker, con la sua tromba in My Heart Stood Still di Rodgers e Hart, al soundcheck di Radio 24. At you, that's all I meant to do, and then my heart stood still. La bellezza, la classe di Chet Baker, immortale, che troverete in centinaia di pubblicazioni ancora oggi nei migliori e nei peggiori negozi di dischi. My Heart Stood Still a chiudere questa prima parte del nostro soundcheck, ricordandovi che Fabrizio Bosso è con noi per parlare di musica e per parlare della sua performance fra qualche giorno qui all'Auditorium Parco della Musica per il Jazz Fest. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Soundcheck, anteprima esclusiva. Sì, questa è un'anteprima in esclusiva per il soundcheck direttamente dalla Blue Note Records. Arriva Robert Glasper, nuovissimo album per lui, capitolo secondo per Black Radio con i suoi Experiment. Qui invita Jill Scott, la poetessa dell'R&B, in questa nuovissima composizione dal titolo Calls. E anche nei prossimi giorni continueremo a ascoltare il nuovo album di Robert Glasper solo qui al soundcheck di Radio 24. Fabrizio Bosso è nostro ospite. Non hai la tromba con te, molto strano, dove ce l'hai? In macchina? No, in macchina no, perché è già capitato che rubassero in macchina, quindi ce l'ho a casa. Oggi mi sento un po' nudo. E ti senti nudo senza lo strumento, ma fra pochissimo lo prenderai, perché intanto tu hai un'attività pazzesca. Io ti leggo dappertutto, suoni dappertutto, e anche in virtù della tua versatilità come musicista, da jazz contemporaneo, jazz tradizionale, ma anche situazioni pop. Negli ultimi anni hai suonato anche con artisti che hanno calcato il palcoscenico di Sanremo e ti sei ritrovato anche tu lì. Che tipo di esperienza è stata? Ma è molto divertente, poi non vivendo e non subendo lo stress del cantante che è in gara, tu vedi tutta la cosa un po' dall'esterno, poi sali sul palco, fai la tua cosa, magari un po' di emozione c'è, ma in realtà per me poi quando prendo in mano la tromba posso stare in una cantina o in un grande teatro, prima di tutto cerco di fare bene quello che devo fare e cerco di divertirmi e condividere la musica con gli altri musicisti. Certo è un carrozzone pazzesco quello di Sanremo, perché c'è stato un anno che con Gualazzi mi hanno coinvolto un po' nelle interviste tutto il giorno, e devo dire che sono arrivato la sera che ero devastato. Loro vivono una settimana così, è pazzesco. Sì, inseguiti dalle radio, dalle televisioni, dai vari giornalisti, sì. Per sapere poi che cos'è, parlare di cosa, parlare di musica. È molto difficile parlare di musica, la musica bisogna ascoltarla. No? Sì, poi si dicono sempre più o meno le stesse cose, perché spesso gli artisti hanno il disco in uscita, quindi hanno quelle 4-5 cose da dire che ripetono per una settimana, però fa parte del gioco. Invece noi siamo qui all'Auditorium Parco della Musica, fra qualche giorno tocca a te. Il festival è iniziato, già Paolo Fresu ha fatto la sua performance, Joshua Redman con la nuova band, meraviglioso come sempre, e tu ti esibirai esattamente quando? Il 31, con questo grandissimo pianista che tu conosci benissimo, che è Julian Oliver Mazzariello, e Massimo Popolizio, che è un attore straordinario di teatro e di cinema. Ecco qui la domanda: perché un attore? È perché avevamo bisogno di un'altra voce, a parte la voce della tromba e la voce del pianoforte, ci serviva una voce narrante, qualcuno che si fondesse con noi, perché poi l'idea è poi quella appunto proprio di l'idea del festival, l'idea nostra è anche quella proprio di fare questo reading insieme, insomma, di arrivare a far cantare lui anche se non canterà, e a parlare noi anche se in realtà non parleremo, però faremo parlare le nostre note, far intrecciare queste due grandi cose, questi mezzi di comunicazione, insomma. E sarà un tributo a Chet Baker, non a caso abbiamo iniziato questo appuntamento con il suono della voce e della tromba di questo grande maestro. Quali sono stati gli artisti di riferimento per te, fra i trombettisti ma anche fra i grandi maestri della musica? Beh, devo dire che sia Chet che Miles li ho scoperti un pochino più da grande. Da piccolo ero affascinato da Clifford Brown, quindi un po' più da musicisti pirotecnici, diciamo. Poi maturando verso i 18-19 anni ho iniziato a capire, insomma, l'importanza della liricità di Chet, dell'essenza, degli spazi, le pause di Miles, per dire, tutte queste grandi cose che poi per fare musica c'è bisogno di quello, non solo di tirare fuori note, bisogna imparare a fare le pause, a dare importanza ad ogni nota che si tira fuori dallo strumento. Chet era, per questo era un maestro, perché lui, oltre suonando la tromba in un range abbastanza ristretto, riusciva a comunicare, cioè aveva meno mezzi, no, a livello tecnico, però aveva questa potenza, questa forza, che come apriva bocca, come faceva un suono con la tromba, andava dritto all'obiettivo. Andava dritto al cuore, e vai dritto al cuore con questa pubblicazione di qualche anno fa. Anche tu sei passato per la Blue Note Records, album bellissimo, uno dei miei preferiti, e vorrei proprio far ascoltare agli amici di Radio 24 questa tua interpretazione, che si avvale di una collaborazione meravigliosa, quella della bravissima Diane Reeves, eccellente cantante. L'album è You've Changed, questo è proprio il titolo anche della composizione che vi facciamo ascoltare, da Fabrizio Bosso with Strings per la Blue Note, qui al Soundcheck di Radio 24. You've changed, that sparkle in your eye is gone, your smile is just a careless yawn, you're breaking my heart. You've changed. Soundcheck, il suono della musica. Uno degli aspetti belli del jazz, ne parlavo adesso con Fabrizio Bosso qui collegati dall'Auditorium Parco della Musica, dove Fabrizio, quando il 31 sei in concerto con Julian Oliver Mazzariello per questa edizione particolare del Jazz Festival di Roma intitolata Speech, proprio perché coniuga musica, jazz e letteratura. Detto questo, stavamo parlando proprio delle prerogative del musicista di jazz. Uno degli aspetti belli è proprio quello che il musicista di jazz non dimentica il passato, lo deve conoscere, lo deve metabolizzare, deve essere presente e vivere il contemporaneo proiettato al futuro. Sembra una cosa facile, ma non lo è. Sì, deve esserci assolutamente questa cosa qua, le basi, cioè come per costruire una casa, se non si parte da sotto non si può fare niente. Fanno un po' ridere a me certi musicisti contemporanei che dichiarano: ah, io mi sono stufato di suonare il blues perché gli standard, basta, che due scale. Ma come fai a dire una cosa del genere? L'emozione che provi quando suoni un blues, tu sono sicuro che sei d'accordo con me, cioè non la puoi provare, anche chi ascolta. Poi ci sono musicisti che scrivono bellissima musica, per la carità, però non bisogna dimenticare la tradizione, e bisogna aver assolutamente assimilato il linguaggio della tradizione. Cioè un trombettista deve saper non dico suonare proprio in quello stile, ma sapere come suonava Bix, come suonava Louis Armstrong, come un sassofonista deve sapere come suonava Bob Webster, per dire. Ed è per quello, secondo me, che tu continui a divertirti, perché scopri sempre bellezza nel passato e sei proiettato al futuro. Vorrei fare ascoltare agli amici, proprio approfittando di questa di questo speech, un brano della tradizione proprio della Louisiana, di New Orleans, che insomma credo che qualsiasi musicista di jazz, e non solo di jazz, abbia suonato almeno una volta nella vita, che è When the Saints Go Marching In, tratto da una pubblicazione veramente bella che tu hai realizzato con l'organista Alberto Marzico, che è uno dei miei preferiti, spero di averlo prestissimo ospite qui a Radio 24, e Alessandro Minetto alla batteria. Album intitolato Spiritual, che tipo di progetto è? E poi so in anteprima che ci sarà il bis. Sì, esatto, uscirà tra circa un mese Purple, che è un po' il proseguimento di questo disco, è un omaggio alla musica gospel, semplicemente rivisitata in chiave jazz. Alcune cose anche le abbiamo tenute proprio così, ad esempio nel disco nuovo ci sarà un brano con un coro gospel, un altro brano con l'orchestra d'archi, e ci divertiva, ci piaceva l'idea di portare, di rimusicare insomma queste splendide melodie, questa musica così all'apparenza semplice ma anche così profonda. Fabrizio Bosso, protagonista del Soundcheck qui a Radio 24. Fabrizio, grazie, è sempre un piacere incontrarti, è sempre bello parlare di musica con te, è sempre bello ascoltarti, e ci sarò il 31 di ottobre qui all'Auditorium Parco della Musica per godermi questo tributo in musica e parole a Chet Baker insieme a Julian Oliver Mazzariello. Grazie a te per questo bellissimo invito e spero di calcare presto un palcoscenico insieme a te e fare un po' di musica. Lo faremo prestissimo, anche una bella idea, e adesso appena chiudiamo te ne parlo. Vi lascio in compagnia di uno dei protagonisti della scena jazz contemporanea ormai da diversi anni, si chiama Roy Hargrove. Anche per lui, come Robert Glasper, la passione, i rudimenti del jazz coniugati poi con un DNA che viene dall'R&B e dal groove, e qui con i suoi RH Factor Roy Hargrove ci fa ascoltare Universe. Buona giornata a tutti da Gigi Telespo. Check. Il suono della musica.